Come le scimmie. Come le scimmie. Sotto un albero mi abbandono al mio istinto, tutto nudo e lucido, batto il ritmo del mondo, vedo un uomo diverso, vedo macachi e liane e una grotta immensa, piena di plastiche africane. Batto le mani al nuovo giorno, da quando coda mi cade intorno, e mi lamento meschino e secco, quando olio sta rotte, vedo pellicce diverse, vedo negozi e collane, e un deposito pieno di carcasse africane. Io ritornerò come le scimmie, di certo farò come le scimmie. Io ritornerò come le scimmie. E abbandonato sotto un albero, mi abbandono al mio istinto, tutto nudo e lucido, batto il ritmo del mondo, vedo un uomo diverso, vedo macachi e liane e una grotta immensa piena di plastiche africane. Batto le mani al nuovo giorno, da quando coda mi cade intorno, e mi lamento meschino e secco, quando olio sta notte, vedo pellicce diverse, vedo anelli e collane, e un deposito pieno, pieno di carcasse africane. Certo farò come le scimmie, io ritornerò come le scimmie, di certo farò come le scimmie, io ritornerò come le scimmie. Come le scimmie.